intendi? Pronto? Cappa, avanti. Apponato, ci non intendesi, non mi intendesi. Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato. Non ti avevo capito. Ciao, buonasera, ben ascoltato. Compagnia di Gavino e Giuseppe da Ottava. Avanti Gavino. Bella fratello, ben entrato e ben sentito. Gavino va a questa parte. Vai Giuseppe, ti presento Sparviero. Vai Giuseppe. Ciao Sparviero, Giuseppe da questa parte. Ciao Giuseppe, buonasera a tutti. Con la speranza che mi ascoltate, perché vi stavo ascoltando e purtroppo le mie condizioni erano prima molto aperte per la 27, poi chiaramente ho cambiato un po' attività. Giuseppe, sei in ritardo perché gli esami sono finiti la settimana scorsa. Sono finiti la settimana scorsa, ti posso dire, su 32, 27 promossi. Quindi adesso devi aspettare il prossimo esame che chiaramente è al prossimo anno. Quindi non so se lo fanno all'inizio dell'estate, se lo fanno a giugno o se lo mandano direttamente nuovamente a novembre del prossimo anno. È molto semplice, devi entrare nel sito del Ministero delle Telecomunicazioni, tirare fuori tutte le domande che ci sono da fare e fare la domanda. Non è che c'è molta, non ci sono molte difficoltà, chiaramente con una grande preparazione, perché nel 1992, quando li ho dati io, era scritto l'esame. Adesso purtroppo è orale e quindi è a quiz. E a qui se è orale, ti interrogo anche oralmente, quindi devi avere una preparazione un po' vasta, un po' più vasta, capito? Mentre prima c'era il compito scritto, se ti capitava il compito, insomma, leggero, con una minima preparazione, riuscivi anche ad andare bene. Adesso è un po' più complessa la cosa. E poi non credo che, passando l'aviamatore, te lo auguro con tutto il cuore, di poterci arrivare a fare il passo un po' più alto, rimani con un baracchino che arriva sino a 28 MHz. Questo ti dico per esperienza, perché per fare la parte amatoriale ci vogliono tante radio, Gavino lo sa, tante radio, ed è un costo, sta iniziando ad essere un costo molto molto alto, anche il fatto di essere radioamatore inizia a pesare, perché le radio ci vogliono, se devi fare attività, le antenne ci vogliono e soprattutto seguire tutto il resto, attivazioni, aria nazionale, sezione eccetera, sono sempre soldi che vanno via ogni mese. Va bene, detto questo ripasso a Gavino. Vai Gavino, fai girare. Sì, ma infatti è quello che gli ho detto, ho detto vedrai che dopo come prendi la patente, come prendi l'autorizzazione ministeriale, gli 11 metri proprio ci passi, ci sgommi sopra. Beh, perché poi diventa anche un ciclo, Giuseppe, diventa un ciclo vizioso, perché se ti accontenti, attenzione, questa è una parentesi, detto tra parentesi anche, anzi, se ti accontenti dell'apparecchiatura, per esempio se uno che compra e tiene, iniziando anche dalle radio un po' più datate, un po' più magari un seconda mano, un terza mano, la cosa potrebbe anche essere dispendiosa a livello di quei 2-3 mila euro, perché poi non è comprare la radio, poi la radio ha tutti i suoi accessori, poi è, anche dipende anche da dove ti trovi, dalla tua posizione, quindi trovare le antenne adeguate alla tua posizione, trovare poi i cavi, tutto, perché poi vuoi andare sempre a migliorare, sempre. Quindi se ti accontenti, se compri una volta e compri bene, puoi fare perfettamente, la radio si può fare anche benissimo, cioè fare radio, la puoi fare anche con benissimo con un HF, appunto la banda HF la fai con uno, però devi avere un HF buono, o devi avere delle antenne performanti, perché altrimenti non vai da nessuna parte. E poi, visto che tu sei diplomato in elettronica, magari riuscirai anche a costruirti un'antenna, un qualcosa da te, quindi su quello risparmi, troverai anche un risparmio. E questo è il quanto, te lo dico perché io sono un grandissimo appassionato, non ho autorizzazione ministeriale, però sono un grandissimo appassionato, soprattutto un grandissimo appassionato di elettronica e di costruzione di antenne in questo settore. Poi io, il mio lavoro è tutt'altro, sempre sull'elettronica, a me piace proprio la sperimentare qua in questo mondo. Vai Franco. Ehi Cappa, stavo aspettando. Oh, vi devo lasciare che mi è arrivata gente. Ci sentiamo. Ciao Claudio, ciao Gavino e ciao Giuseppe. Se ci siete dopo magari rientro, dai. Riprendi Gavino e fai girare. Sì, Franco, ci sentiamo dopo. Io sono tutta la sera a casa, Franco. Quindi fuori oggi ho fatto abbastanza, quindi è ora di rilassarmi. Vai Franco, Claudio, scusami. Cappa, ciao Fra, ci sentiamo allora, dai. Io non so se ci sono dopo, perché io poi mi guardo la partita, mi rilasso un po' anch'io e basta. Anch'io oggi stavo pulendo, facendo, mettendo a posto. Poi mi si è bucata la pompetta del decespugliatore, non ne ho, e quindi l'ho messo da parte. Adesso la mattina vado da Pinuccio, la compro e continuo a fare quello che c'è da fare, perché c'è la pulita tutto fuori, se no tocca chiamare il trattore fra poco. Sì Giuseppe, perlomeno io te lo dico per esperienza, perché io sono diventato radioamatore nel 1992, ho 65 anni e quindi insomma un po' di radio l'ho fatta, ma soprattutto ne ho avuto tantissime di radio, perché non ti accontenti mai, purtroppo cambi, compri, vendi, scambi, insomma stai sempre così. È una passione che non è mai andata a morire per me. Anche qua ci sono stati dei momenti in cui mi sono un po' assentato, poi ho ripreso, ma da quando ho cambiato casa mi sono assentato parecchio tempo, ma per negligenza mia, perché non avevo piazzato l'antenna 27, avevo altre cose da fare eccetera, quindi insomma non ne avevo voglia. Poi alla fine mi sono deciso, l'ho rimessa perché mi serve proprio per i 10 metri la verticale, e quindi la uso anche in 10 metri, ma tieni conto che io noi facciamo 10, 15, 20, 40 e 80, ok? Io ho 5 radio, una per ogni banda. Vedi come, vedi tu, non si riesce mai a finire, insomma, di fare, di mettere, anche se sono, come dice Gavino, non radio di ultima generazione, ma io mi accontento, sono radio che mi hanno sempre dato grande soddisfazione, mi piace molto l'analogico anziché il digitale, ne ho una solo digitale, che è l'IC7004 della Icon, le altre sono tutte analogiche, mi piacciono così. Ti rimetto il cambio, in che zona abiti di l'ottava, vicino a Gigi Vulcano, no? È zona semaforo, dove c'è anche il supermercato. E niente, vabbè, la mia era solo una cosa per poter essere in regola eventualmente, ma non è che sia indispensabile che lo faccia. E niente. Mettete in regola di che cosa? Non sei in regola, cosa? C'è un baracchino che sconfina, ma non è colpa tua, l'hai comprato così, va bene. Quindi l'importante è non sconfinare, rimanere nei limiti, stare negli 11 metri, anche se vai a 27, oltre il 27 405, che è il canale 40, l'importante è che non ti avvicini ai 28, e nessuno ti rompe le scatole, quindi non è quello il problema. Così, anche avendo un ricevitore o qualcosa per le V e per le U, l'importante è ascoltare, non andare a rompere le scatole ai radioamatori. Per quello sì, tranquillo, sereno, vai Gavi. Sì, ma infatti poi si inizia, e no, ma quella radio ha... più che altro sono Giuseppe, si cambiano le radio non per neanche per il vantaggio, perché poi questi HF, a parte qualcuno che tira fuori invece di 100 o 200 watt, di 100 tira fuori 200 watt, quindi più che altro si va, c'è questa cosa di cambiare la radio per avere la radio sempre più grande, e poi come ha detto Claudio, ora c'è questa moda dei menu, sottomenu, modulazioni, quello, quell'altro, e allora lì si vanno a spendere anche 3-4 mila e ci si... e come detto, lì va in un ciclo vizioso, lì va in un ciclo vizioso. Una cosa che volevo chiedere a Claudio, va bene, è a posto questa così? Alla grande, io sto usando la gemella, non va bene? Sì, va bene, beh, l'amplificazione a posto? Sì, perfetta, bella, chiara, pulita, ma no, non avevo dubbi. Quella a tutt'oggi è sempre una gran signora radio. Lo sai che io sono di quella categoria lì dal 1986, 86, per dirla a Giuseppe, io non ho mai avuto baracchini, Giuseppe. Ora. Non piacciono, ne ho un mare. Sono collezionista del vintage di baracchini, ce n'è anche qualcuno molto bello, ma non ne ho mai usato, io ho sempre usato gli HF. Usavo già l'HF prima di essere radioamatore, come questo è un 440 della Kenwood, abbastanza adattato, con l'MC60, ma inizialmente lo usavo anche in HF, e poi l'ho passato in 27 come altre che ne ho, ma non ho usato mai baracchini. Io in 27 ho sempre usato gli HF, dalla Kenwood, dalla Yaesu, all'Icom, eccetera eccetera, capito? Per dirti che a me piaceva trasmettere così 27, e sempre, io non sono mai entrato con, magari facendo qualche prova, ma diversamente non ho mai usato grandi baracchini. A te Giuseppe, sì, ho capito, abiti vicino a Gigi Vulcano. Ehi K, no, io ho ripreso adesso, La passione ce l'ho sempre avuta, ho iniziato che ero ragazzino a 15 anni a parlare al baracchino, allora mi trovavo ad Alghero e niente, parlavo con molti di Sassari, mi ricordo anche molti illuminati di allora, anche Vulcano credo che fosse un vecchio, uno insomma che trasmetteva anche in quel periodo lì degli anni 90. Sì, vabbè, ce ne erano tanti allora, io sono arrivato a Sassari nell'85, prima parlavo da Porto Torres, il mio nome attivo è stato sempre Claudio Sparviero, non ho mai cambiato, e parlavo sì con Alghero, con tanta gente, anche da Ottava, c'era Antonello che parlava da Ottava, allora c'era Coso, come si chiama, insomma ce n'erano tanti, Nando Blocchetto mi sembra, insomma ce n'erano tanti che parlavano anche lì da Ottava, da Ripunti eccetera. Poi piano piano con la tecnologia sono tutti spariti. Avanti Gavi. Sì, abita, ha detto che abita solo a fianco al supermercato, quindi abita a 20 metri da Gigi. Se là si fa... Ci dà pieno, Se tira al lento si toccano le antenne. Almeno quando si abita dove c'è il supermercato, come ha detto lui, si toccano le antenne, perché Gigi abita a 20 metri da lì. considera che Gigi non trasmette perché va, va detto io vado a disturbare la cassa, dove, la cassa, registratore di cassa del supermercato, quindi dopo le 5 devo spegnere la radio, almeno così, ma se non mi ricordo male, ma aveva detto così, quindi ti ho detto tutto, quindi abitate proprio a fianco, Giuseppe, abitate a fianco. Claudio, non sto utilizzando il 440 io adesso, Claudia, io sto utilizzando un CRT 6009, un CRT 6009 col suo microfono non palmare originale, ma ha il suo palmare amplificato che è consigliato per lei. Sto utilizzando, giusto per farti capire, la stessa radio che sta utilizzando Giuseppe adesso, mi segui? Però questo è il mio setup, ecco, Giuseppe c'ha il setup diciamo originale, io gli ho fatto il setup così. Vai di nuovo Claudio. Sì, ero convinto che stessi usando il 44, bella modulazione. Sì, lo conosco il CRT 6009, c'è anche il 9009, mi pare che sia l'abbiattino anche quel tipo di radio. C'è qualcuno che vuole entrare, non ho capito chi è, avanti. Sì, buonasera, tutto a posto, sì. Noi tutto a posto, tu tutto a posto. Sì, in casa di Dio, a voglia. Ah, ok, è una domanda un po' strana, noi stiamo bene così, tutto ok, tutto a posto, senza nessun problema. Avanti, Gavi, e fai girare. Sì, ciao Antone, ciao Antonello, buonasera. Vai Giuseppe, riprendi. K, no, hai ragione, la sera infatti me l'ha detto che c'è questo problema della cassa, di evitare di chiamare in certi orari perché dice che entriamo nella cassa. Lo sai, vabbè, ti dirò cosa fare per non entrare nella cassa, dai. Ti dirò cosa fare perché quelle sono... Allora, tu con queste radio qua sicuramente non entri nella cassa, fidati. Non entri, soprattutto in FM, l'FM non disturba, la M, l'ampiezza modulata può essere, perché Gigi trasmette molto in AM, però qua tu con pochi watt, anche con 5-10 watt, non dovresti, soprattutto con queste radio. Se è originale, la tua che mi hai detto che l'hai comprata da poco, ed è originale, non dovresti fare questa sorta di disturbo, soprattutto in FM. Anche io per esempio ho deciso di diciamo trasmettere in frequenza modulata per i disturbi, perché non voglio avere problemi con il vicinato. Io abitando qui in campagna, ci sono abitando nell'agro, diciamo tra Porto Torres e Sorso, o come tu sai, chi abita in campagna magari antenne un po' così, o qualcosa di accrocchiato, di aggiustato, quindi non voglio, diciamo da me la prima abitazione è a 60 metri, quindi è molto vicina, però grazie a Dio io posso utilizzare le potenze che voglio. La cosa molto saggia sarebbe avere un'antenna calibrata al 100%, cioè un'antenna deve avere un setup, deve avere una regolazione al 100%, devi fare un lavoro certosino, in modo, l'SVR vuol dire tanto, ma non solo per la trasmissione, anche per le spurie che possono togliere le antenne, è quello che disturba, perché perché in FM non credo che tu vada a fare quel disturbo lì, eh. Poi Claudio, dammi il tuo parere, se ho detto qualche fesseria oppure se puoi confermare quello che ho detto. Vai Claudietto. Prego. Aspetta Claudio, io sono un secondo dallo spin a fare la spesa, ci sentiamo fra 10-15 minuti, tanto di salire, ok? Ci andiamo fra poco. Ecco cosa ho trovato sul web. Ok Antone, va bene, siamo qua, avanti Black. No, hai detto giusto Gavi, avanti Black. Non so se è con me con questa radio, in FM, non lo so, non ha detto di nulla. Era buonasera a tutti comunque. Claudio, ho capito già chi sono. Oe Gigino! E allora volevo dire a Gavi, radio normalissima, baracchino piccolino, non superava i 4 watt, l'ho passato a 1,5 watt. L'ho passato io 1,5 watt, niente da fare. Entra dentro come tu, schiacci la portante e parli, come che stiamo parlando noi, dentro le casse del supermercato. Non c'è niente da fare. Voi Claudio questa storia la sa perché abbiamo piazzato assieme l'antenna, è fatto, ma non c'è stato mai rimedio. Capito? Entra dentro le casse delle... Infatti loro mi dicono non dire cose... Perché dice niente, perché ascoltato la gente, a me mi dà fastidio che la gente mi senta la voce mia parlare dentro quello che stiamo dicendo dentro il supermercato, capito? E allora non accendo mai in quell'orario lì, tutto qua. Infatti lo stavo spiegando a Giuseppe stamattina, infatti lo sapevo, infatti questa radio esce con 4 watt, capito? Però entra, non c'è niente da fare. Ciao Gigi, buonasera. Ma tu lo sai che allora io non avevo capito questa roba delle casse, dei diffusori, io avevo capito che disturbavi la cassa contabile, la cassa fiscale. Mi segui? Perché oggi con queste casse digitali, a livello fiscale, ci possono essere delle interferenze. Gigi, il problema quindi è la diffusione, l'impianto sonoro di diffusione del locale, mi confermi? Sì, proprio quello lì del locale, le case che fanno la pubblicità, che stanno acceso lì, quello lì tu entri, interrompi tutto e sentono la voce tua chiara, perfetta, come sto parlando adesso, dentro le interrompe tutto. Sì, allora io ti posso dire, accetti un consiglio? Ti posso dire un consiglio di come risolvere questo problema. Ascolta, Gavi, guarda, Claudio lo sa, non è un giorno, sono quasi 20 anni questa storia, non è un giorno, è quasi 20 anni. Adesso io non so, l'antenna poi l'ho messa su, sarà una quindicina, adesso non mi ricordo neanche, con Claudio abbiamo piazzato quella manto qua a turbo. Niente, quel problema c'è sempre stato, ho provato con ferrite, con schermare qua, schermare là, non c'è stato niente da fare. Entra nel coso delle casse che c'hanno loro, dai. Gavi. Dimmi, Cla. Allora, in pratica, per fartela breve, questo supermercato c'ha un impianto audio interno, no? No? C'hanno il microfono che chiamano internamente, eccetera, e poi c'hanno questo impianto stereo, questo impianto wifi, non lo so, cioè c'è qualcosa all'interno appunto di questa cosa qua. Noi abbiamo provato di tutto vuol dire di tutto e di più, con tutta l'esperienza, addirittura ci siamo anche informati da altre persone tecnicamente veramente specifiche per quel tipo di lavoro lì, mettendo anche un filtro passabanda, mettendo di tutto e di più, con un baracchino omologato, 4 watt, microfono normale, entri lo stesso, cioè praticamente senti la voce nelle casse audio, capito? E non siamo mai riusciti a capire il perché. Secondo un tecnico che avevo consultato io mi ha detto c'è un'armonica che praticamente entra nell'impianto, bisognerebbe che loro si spostino di frequenza. Ma vai piegami l'udu che loro si devono spostare di frequenza. Allora, Cla, Gigi mi ha detto che è a 20 anni, è 20 anni che ha questo problema, giusto? 20 anni e via forse, perché l'antenna l'abbiamo messa una 15 anni fa, io, Gigi e Luca, quindi penso che sia da subito dopo ha iniziato questo problema, quindi penso sia una 29 anni, sì. Perfetto. Non sarebbe opportuno dopo 20 anni aggiornare il sistema di diffusione? Cioè, giusto per capirci, no? Claro, io l'installo quella roba lì e lo so cosa vuol dire, lo so. Quello di lì non c'è nessuna armonica. Quella radio lì, adesso vi spiego qual è proprio il motivo di quella roba, quella radio lì ha una ricezione larga in AM. Quella radio lì ha una ricezione in AM larga, non ha un AM dagli 88 ai 108. Quella radio lì in AM riceve anche nei 60, nei 50, nei 50 MHz, attenzione. Quelle lì sono dei sistemi RCF vecchi, che non c'ha 20 anni, ne ha di più. Quindi di quella roba lì, lo sai quanto l'abbiamo cambiato noi qua? Una marea, perché sono radio che vanno dai 50 ai 100, guarda, in AM ci manca poco, anzi forse 118 ricevono anche forse la mezza banda aerea, quindi questo qua è il problema, che quelle radio lì hanno un'ottima, hanno una lunghezza di banda in AM molto, molto larga, quindi il problema è quello, e da 20 anni a questa parte sarebbe anche ora di prendere quella radio, buttarla via, perché quella radio loro le tengono perché hanno l'emissione microfonica, hanno il PTT per parlare, ed erano radio che costavano, però sono anche radio che vogliono prese e vogliono demolite, perché non puoi ancora oggi continuare ad avere quella radio per ascoltare dagli 88 ai 108, perché ha un mic, perché ha un ingresso microfonico. Ora quelle radio le trovi a 200-300 euro e fidati che sono totalmente un'altra cosa. Vai Gigi, faccio questo passaggio, poi chiudo che sono venuti là a trovarmi. Vai Gigi. Comunque c'è stato un periodo, un 5-6 anni, se non di più pure, che non entravo, però avevo sollevato l'antenna, l'avevo portata molto più in su, capito? Poi cosa è successo? Si è rotto l'aspirare, una cosa e l'altra, e l'ho abbassata e non l'ho tirata più su, l'ho lasciata bassa. Come l'ho abbassata, rientra nuovamente dentro il negozio, capito? Deve essere alta l'antenna, a parte che ci mancano anche i radiali, infatti Giuseppe deve anche fare con le cornacchie, Giuseppe. Guarda, si mettono sulle radiali e te le buttano giù, come fanno a me. Da te le cornacchie si mettono spesso sopra il tetto, perché li vedo io sopra l'antenna della televisione. Devi stare attento per le cornacchie. Sì, Gigi, ma è quello che ti dico, è perché abbassando anche i radiali, abbassa anche il punto di radiazione dell'antenna, mi segui, più l'antenna è bassa, più il radio è basso, logicamente, e prende e ti dà quel problema a lui, ma non puoi tenere, allora, per togliere quel disturbo non devi metterlo tu il filtro deve metterlo lui in antenna, nell'antenna piccolina ci vorrebbe un toroide o bisogna farli degli avvolgimenti con delle ferriti, però vai a capire che tipo di ferriti ci vogliono, vai a capire la lunghezza del cavo che ci vuole per abbassare quella, perché molto probabilmente lui non ha un'antenna verticale dritta, lui probabilmente ha anche un pezzo di filo, perché quelle radio non avevano delle antenne, quelle radio tu collegavi un pezzo di filo e magari ce l'ha anche collegata a massa, quindi perché prende di più, ce l'ha collegato a una finestra, a una ringhiera o un qualcosa di ferro che ha di lì nel locale, potrebbe anche disturbare se il filo è puntellato a muro ed è attaccato al muro con un chiodo, capito, lo sbucci e lo attacchi al muro, oppure basta che lo sbucci, lo attacchi al muro, lo avvolgi a un chiodo e gli fa il problema. Ne abbiamo cambiato tanti di quegli impianti. I diffusori sono ottimali, i diffusori sono ottimi, perché però tutti cambiano solo perché fa anche da trasmettitore quella roba lì. Quindi ti ho detto il motivo per il quale disturbate. Questo qua è il motivo, signori. Quindi lui sicuramente ha un'antenna fatta col filo, perché è un'antenna verticale, anche con il ferro, le classiche antenne, gli stili, quel difetto non glielo fa lui. Però non si possono mettere, allorché non la metti esterna, cioè esterna nel senso esterna alla radio, fai una crew che gli porti il filo. Però il problema è quello lì. Signori, io purtroppo vi devo lasciare, che è arrivata gente a trovarmi, a farmi visita a casa. Fratello Claudio, ci sentiamo alle prossime. Ciao Giuseppe, ben entrato, ben sentito per la prima volta. E ciao Gigi, grazie per essere entrato. Discorsi sempre interessanti. Questi qua sono i consigli che ci piacciono. Ciao, buona serata a tutti. Vai Claudio. Ciao Gavi, un abbraccio grande a casa. Salutami a Francesco. Ok, già ci aggiorniamo telefonicamente, già ci vediamo. Vai Gigi per i saluti. Ciao Gavi, dai, fai buon proseguo della serata. Buon tutto, ciao. Vai Giuseppe. Ehi capa, ciao Gavi. Ben sentito per la prima volta da parte mia e alla prossima. Kappa, è così, purtroppo è così. Vabbè, comunque, quell'impianto Gigi rimane il fatto che è un impianto vecchio e quindi lo devono mettere a posto, devono cambiare. Perché è così, però vabbè, tanto. Non è che adesso stavo girando, ho uscito a Gavino e a Franco e sono entrato a salutare, ma anch'io vi abbandono perché vado a vedermi un po' di TV, poi c'è l'Italia e quindi vediamo cosa preparare a cena. Vai. Un abbraccio Gigi, qualche mattina ti telefono, scendo a trovarti, andiamo a prenderci un caffè assieme. Ciao Giuseppe, ben ascoltato e ci sentiamo alla prossima. Riprendi tu e fai girare per Gigi, ciao. Ehi capa, ciao, alla prossima. E niente Gigi, qua bisogna fare qualcosa. Yeah, ciao Clara, ci ascoltiamo alla prossima. Giuseppe, no, ma io infatti non ci sono entrato neanche più, perché ormai mi sono scocciato, troppi anni che ci sono. No, io ce l'avevo sempre in camion, io ho una fitta che ce l'ho anche quando io facevo trasportatore e l'ho avuto sempre in camion. E avevo radio, ti dico già tutto, io da Santa Giusta parlavo con Claudio qui a Sassari, da Santa Giusta a me, da Oristano, ti ho detto già tutto in camion, però non a casa ce l'avevo, però non è che sono, però il problema qua, ci ho provato di tutto, però l'impianto l'avranno anche cambiato, ti ho detto il fatto che io ho passato l'antenna per mettere, prima ce l'avevo più bassa, l'ho sollevata e non ho dato più fastidio. Sento il negozio, mi dice no, non ti sento più, con radio potenti, meno potenti, c'è un radio professionale che poi me l'aveva fatto comprare Claudio, poi gli ho tornate a lui, diciamo Claudio, radio per radioamatori, c'è un radio, poi l'ho ridate nuovamente a Claudio e non ne ho più di quella radio, le ho fatte tutte fuori. E adesso ho solamente baracchini e basta, no. Però posso andare in altre frequenze, posso salire fino alla 28, ci posso arrivare, però sono solo baracchini, però non c'entro quasi mai, capito? No, raramente le accendo. Stamattina che stavo facendo una cosa l'ho accesa così e basta, se no no. Ogni tanto mi rifaccio qualche riparazione a qualche amico, gliele sistemo, più che cose del genere basta, capito? Capa, però, cioè, non è neanche giusto che se loro hanno un sistema vecchio, cioè, dobbiamo essere, cioè, non è, la colpa non è la nostra, come stava dicendo anche l'amico, cioè, dovrebbero aggiornare il loro sistema. Non so se l'hanno cambiato, penso io da allora l'hanno cambiato, però gli ho dato anche delle cose, io me le avevo date, non mi viene il nome, un tecnico, un radioamatore tecnico che c'è stato, l'amico di Claudio, sono andato, me l'ha dato lui di darle, infatti io ho parlato con Iva, dice facciamo qualcosa, dice lo voglio fare anche io, e gli avevo procurato tutte, mi aveva tutte queste cose con la ferrite per metterla nei cavi delle casse. E poi non lo so se l'aveva messo, probabilmente l'aveva messo, poi non davo più fastidio perché avevo sollevato l'antenna. Con Claudio mi aveva detto abbiamo sollevato l'antenna e non entravo più. Però poi io l'ho abbassata perché si è rotto l'aspirare, l'ho rimesso a posto, però l'ho lasciata bassa, non l'ho portata più su perché il vento, detto, questo me l'ha buttata giù. Poi sono anche quei cuffi e quelle tortole che hanno buttato giù le tre, mi pare che ce ne mancano tre radiali addirittura, capito? Però non è che mi hanno rimproverato dicendomi no, mi ha detto di stare attento come cosa dico, cosa parlo, perché sennò dice, sento tutta la gente che c'è nel negozio, capito? E se si poteva risolvere, infatti io l'avevo procurato questa roba, mi aveva dato questo tecnico, è un radioamatore, ripara televisori, adesso mi viene il nome, fa le riparazioni dei televisori, cioè era un radiotecnico lì a Sassari, capito questo? Capa, ma loro il tubo ce l'avevano quando tu trasmettevi in AM o in FM? E allora erano tutti non ci andava nessuno in FM, erano tutti in AM, capito mai? Tutte queste distanze erano sul 10 in AM, non in FM, capito mai? E allora erano tutti, poi c'avevo un radio professionale e quelli uscivano con 40, se parete, c'aveva 40 watt, adesso non mi ricordo, 60, non mi ricordo come era. L'aveva programmata Claudio perché lui era più esperto di me su queste cose qua e niente, però niente, non è che mi hanno detto un gran cosa, però mi hanno detto che ti sei, però dicevo anche l'altra gente stavi parlando dicendo questo e quest'altro oggi dal negozio, capito? E allora mi dà fastidio a me fare sentire la voce mia dentro le, capito? E allora a parte che un po' si è calmata, prima c'era più movimento, più cose, questi baracchini, queste cose, adesso c'è tutto, non c'è quasi più nessuno, capito Giuseppe? E allora no, non accendo quasi mai, sono mesi e mesi che non accendo, capito, che non accendo mai. Capa, possiamo fare una prova andando una volta a testa al supermercato, mentre l'altro modulo è vedere se stiamo entrando. No, io già lo so che infatti ho detto non la sollevo più l'antenna, ho detto no, basta, non ne vedo, non lascio lì come quella, perché poi prende molto vento, hai capito, ed è pericoloso che ne cada pure e faccia danno, capolo. E niente, no, non lo so per te, devi provare, perché tu ho visto non è tanto alto il radiale, sta più o meno come la mia, più o meno, non forse qualcosa in più la tua, A me questo, Vittorio Giove, adesso mi sono ricordato il nome di Vittorio Giove, e lui mi ha detto devi sollevarla almeno più di 4 metri almeno dal coso del tetto, e lì che non dà fastidio, 4 metri dal piano del tetto mi ha detto sollevarla. Boh, asso la mia non so di quanto sia dal piano del tetto, perché c'è un tubo, 4 metri non ci arriva sicuramente, magari sarà un paio di metri. Bisogna fare quella prova, per esempio, adesso questo è 4 watt, vedi, io sto adoperando, ne ho altre cose più potenti, però sto adoperando questo normale con 4 watt, e questo entra, non c'è niente da fare, però in FM, dice la verità, non l'ho mai provato, solo me l'hanno detto, dice guarda che ogni tanto quando faccio delle prove, no, facendo prove qua, che sto riparando, forse da poco hanno riparato 5-6 di questi baracchini, questi camionisti che stanno volando qua giù, e facendo le prove mi sentivano, facendo le prove solamente, facendo delle prove senza fare niente, sentiva che bloccavo tutto, dai, quando schiacciavo la portante. Vabbè, vediamo davanti se c'è ancora questo problema o se magari hanno cambiato il sistema loro. Ok, comunque adesso chiudo, faccio QRT per la cena. Ci sentiamo alla prossima, intanto già siamo uno schioppo. Va bene, dai, ok, io non è che c'entro tanto, ormai mi sono un po' scocciato di questo, veramente, dai. Va bene, dai, già ci vediamo lì, va bene, dai, buona cena per tutto. Grazie, altrettanto, ciao. Oh, sono qua, Sono anche qua, sono qua, lì e dappertutto.